Sto vicino a te, ma io non lo so quanto ci resta. Yeah. Tu chiudi gli occhi e dopo lanciati, vedrai che sensazione. Non c'è il mare ad abbracciarci, una stupida relazione. La famiglia è l'unica cosa di cui prendersi cura. Stufi del viaggio ci accasciamo sull'erba della pianura. Il nodo in gola di chi perde il suo tempo per stare dietro ad un sogno che non si avvera e sognando lo sta perdendo. Per noi scoprirci a vicenda è come passare da un hotel con una S dopo l'ultima stella a dormire in tenda. Quando andrò tu avrai una chat a cancellare, password segreto. Amarsi è come dissetarsi, avere ancora sete. Casa al mare sempre uguale, il wifi non funziona bene. Chissà se vivremo come si deve. Prima o poi io guarirò, ma non mi ricordo come si fa. Io non mi ricordo di non farti male. Sto vicino a te, ma io non lo so quanto ci resta. E una settimana è sempre uguale, per scuse inutili ci allontaniamo, ma eravamo un'idea solo nella tua testa. Un istante poi mi giro, respiro e sto meglio. Mentre piovono i casini sto sotto l'ombrello. Perché son brava a tutti i muri, li faccio di marmo. Per ripararmi dai dolori, da tutto il bordello. E giro tutte le città, ma ti vedo in Alaska. L'unico posto che da fuori è più freddo che in pancia. Perché non crescono mai fiori dove tutto ghiaccia. Perché da un po' io stasco fuori, odio tutti e basta. E ti giuro l'inverno è un posto perfetto, perché posso piangere in pace e non fingere. E disegno tutte le case, ci vivo dentro. E disegno te che mi guardi e resti per sempre. Prima o poi io guarirò, ma non mi ricordo come si fa. Io non mi ricordo di non farti male. Sto vicino a te, ma io non lo so quanto ci resta. Che una settimana è sempre uguale, scuse inutili ci allontaniamo, ma eravamo un'idea solo nella mia testa. Sto vicino a te, ma io non lo so quanto ci resta. Che la settimana è sempre uguale, per scuse inutili ci allontaniamo, ma eravamo un'idea solo nella mia testa.